l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, anche oggi in diretta dagli studi di Milano di Radio 24 parte, il nostro viaggio per raccontarvi l'Europa dal nostro punto di vista. L'attualità, la cronaca, le notizie più importanti vi vengono narrate ogni settimana da Radio 24. Noi in questo appuntamento cerchiamo le sfumature, cerchiamo di darvi così contributi diversi, di raccontarvi un po' quello che è lo spirito europeo, però ci piace farlo anche raccontando storie, raccontando persone, ma anche partendo dall'attualità, ma cercando di andare a vedere quelle che sono le sfaccettature nella nostra quotidianità. Euranet.eu è il sito di riferimento del network al quale anche noi apparteniamo per raccontare questa Europa. Potete intervenire in diretta via SMS 349-238-6666 per i vostri messaggi, oppure in Facebook nelle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, pagine che aggiorniamo in diretta minuto per minuto e inseriamo tutti i link che andiamo a toccare, degli argomenti che andiamo a toccare durante la puntata. Si parte e partiamo dal cuore dell'Europa, partiamo dalla Germania. Wenn's erst zu spät ist, dann schreit Deutschland plötzlich auf vor Schreck. Schon wieder hat ein Kernkraftwerk ein Leck. Nur das diesmal für Radioaktivität entweicht. Und alle Angst haben, dass der strahlende Strom sie begleicht. Non ne siamo all'Oktoberfest, questo è un inno ambientalista, perché andiamo a parlare di nucleare, tema centrale in Europa, tema centrale in Italia. Siamo a pochi giorni anche da un referendum importante, ma anche qui una Europa unita, si parla di nucleare, però ogni nazione poi va per la sua strada. E ha fatto scalpore la notizia arrivata dalla Germania, la Germania che ha detto basta con il nucleare e hanno deciso di fermare l'ultimo reattore nucleare entro il 2022, quindi una scelta forte di una nazione che comunque è molto appoggiata a questa forma di energia e garantisce circa il 22% del fabbisogno di elettricità di tutto il paese. Però la Germania ha deciso di fare marcia indietro e di cercare l'approvvigionamento energetico da altre fonti. Quello che ci interessava capire era quello che è stata un po' la reazione dei cittadini, dell'opinione pubblica, e per farlo abbiamo invitato il collega giornalista Jan Christoph Kitzler della Deutschland Radio. Ciao Jan. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, buon sabato, come stai? Bene, tutto tranquillo a Berlino. Okay. Ascolta, prima di parlare di nucleare passerei subito al cetriolo killer, e comunque non solo al cetriolo, insomma questo batterio che sta allarmando l'Europa, e insomma l'epicentro del tutto è lì in Germania. Avete paura? Eh sì, la gente è abbastanza preoccupata, perché soprattutto non si sa da dove viene questo patogeno, no? Si chiama EHEC. All'inizio si diceva che veniva dai cetrioli, adesso sembra che non sia stato vero. I contadini in Spagna sono anche abbastanza arrabbiati, perché loro non vendono più. Cioè, i tedeschi adesso si dice non mangiare verdura cruda, cioè cetrioli, insalati, pomodori, soprattutto quelli che vengono dal nord, però precisamente da dove viene questo patogeno non si sa. Mm-hmm. E quindi stanno cambiando un po' le abitudini alimentari dei tedeschi, o comunque sui quotidiani o in televisione o in radio vengono date istruzioni per l'uso, quindi come mangiare, come trattare le verdure, o comunque c'è una sorta di già rassegnazione e tranquillità? No, c'è l'Istituto Robert Koch che sta facendo l'indagine e dà anche i consigli. Appunto, ha detto non mangiare cetrioli, insalata, pomodori crudi. Cioè, la gente più o meno lo rispetta, c'è un po' di preoccupazione, ci sono tanti servizi anche, diciamo, nella radio, nella televisione, i giornali scrivono tutto, perché anche adesso sono oltre 1200 casi, tra quelli più di 500 casi gravi, cioè malattie che sono anche pericolose alla vita. Ho capito. Abbandoniamo le batterie, insomma, ci ha dato un aggiornamento, e passiamo invece al nucleare. Jan, la reazione pubblica, come hanno reagito i tedeschi alla notizia del governo di dire basta al nucleare? Ma direi che la maggior parte dei tedeschi è abbastanza contento di questo, perché già prima di Fukushima c'era un movimento molto grosso contro il nucleare, e ci ricordiamo che nell'estate scorso il governo della Merkel ha fatto una bella inversione a U, diciamo che c'era prima un compromesso chiudendo già gli impianti nucleari fino al più o meno anno 2022-23, e invece la Merkel nell'estate scorso ha riaperto quella discussione dicendo vabbè, non usare quei impianti sarebbe uno spreco di potenzialità economica, diciamo, e così hanno prolungato i termini che possono correre questi impianti. E dopo Fukushima anche questo governo ha ripensato, perché anche c'erano tanti protesti, c'erano veramente centinaia di migliaia di persone sulle strade in Germania a protestare. E adesso hanno cambiato idea e hanno di nuovo chiuso, hanno messo i termini, e sembra che adesso chiuderà l'ultimo impianto nucleare in Germania nel 2022. Certo, ecco, ma per compensare l'energia elettrica, l'energia che mancherà con la chiusura delle centrali nucleari, si parla comunque di le rinnovabili, le alternative, ma anche una dipendenza sempre maggiore, per esempio, dalla Russia per l'importazione del gas. Ecco, non c'è un po' di paura tra i cittadini, A, di un aumento delle bollette, B, comunque di una minore autonomia energetica rispetto al resto d'Europa, rispetto comunque alle altre nazioni? Ma sì, le bollette aumentano comunque, perché qua in centro di energia abbiamo quasi un monopolio di 4 imprese giganti che fanno più o meno quello che vogliono, diciamo, no? Però cioè, la dipendenza c'è anche adesso dal gas della Russia, però bisogna anche dire che la Germania ha fatto dei grandi passi in senso di energie rinnovabili, cioè adesso già produciamo, mi sa, oltre 17% della nostra elettricità col vento, col solare, così, e questo è aumentato più che si aspettava. Adesso sembra che vogliono fare un pianto di rafforzare questo di nuovo, cioè soprattutto puntano sull'energia che viene dal mare Baltico, dal mare dall'Atlantico, energia del vento, e lì cercano di vogliono fare dei impianti grossissimo con l'energia del vento. Mm-hmm. Ma ascolta, in Italia si dice, se anche i tedeschi chiudono le centrali nucleari, loro che le sanno fare, figurati noi. È comunque una paura legata ai rischi reali di un incidente o è un qualcosa di altro? È comunque, secondo te, un passaggio culturale, cioè si ha paura più che dell'incidente, magari delle scorie o di quello che può essere l'impatto sull'ambiente del nucleare? In Italia era così, cioè dopo Chernobyl voi in Italia avete chiuso gli impianti, in Germania c'era sempre questa teoria, diciamo, anche dei conservatori che dicevano vabbè, questo che è successo nell'86 a Chernobyl era una cosa dell'Unione Sovietica, un vecchio impianto dell'Est. Quella teoria adesso dopo Fukushima è abbastanza crollato, bisogna dire, no? Però c'era anche un movimento, cioè il problema è che in Germania fino a oggi non c'è un punto definitivo dove mettere le scorie. C'è un paesino si chiama Wendland, c'è una regione che all'epoca era al confine, vicino al confine delle due Germanie, tra le due Germanie, e lì era previsto in una vecchia miniera il posto per mettere il ripositorio, diciamo, per mettere le scorie. E adesso anche questa discussione si è riaperta, perché lì c'era tantissima protesta, poi adesso c'era una discussione se questa miniera è veramente adatta per mettere le scorie per, che ne so, migliaia di anni. Questa è anche una grossissima discussione. Assolutamente, insomma, tante discussioni aperte. Iano, un'ultima domanda per farmi i fatti tuoi: oggi lavori o sei in vacanza? No, io sto tranquillo, ho lavorato ieri, l'altro ieri, c'è tutta la settimana, poi ricomincio domani. Perfetto, vedi, con tanta serenità. Buon weekend, Jan, e grazie per essere stato con noi, per averci un po' fotografato la situazione in Germania. Ciao, buon sabato. Grazie a voi, ciao ciao. Ciao ciao. Noi ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Le nozze di Lutero. Una festa in memoria del matrimonio di Martin Lutero con Catarina von Bora. Catarina abbandonò il convento per amore di Lutero dopo che aveva pubblicato le sue tesi contro il mercato delle indulgenze, dando vita alla riforma protestante nel 1517. La cittadina di Wittenberg, in Sassonia-Anhalt, ha deciso di celebrare le due figure festeggiando il loro matrimonio ogni anno nel secondo fine settimana di giugno. In questo periodo, tutta la città torna al Medioevo, con tanti figuranti in maschera che propongono le antiche arti e mestieri dell'epoca, un mercato, banchetti con danze, spettacoli e cibi medioevali. Il momento clou è la parata nuziale, con oltre 2000 cittadini in costume. Per informazioni, lutherhochzeit.de. L'altra Europa. www.euranet.eu è il sito del network radiofonico al quale partecipiamo e apparteniamo anche noi di Radio 24. Tantissimi dossier tematici, tantissime notizie anche in tempo reale, 24 ore in Europa, per esempio questa rubrica con aggiornamenti quotidiani, ci sono tantissimi servizi sulle notizie di attualità, si parla anche delle batterie, si parla della Germania, insomma si parla di tutto quello che succede in Europa, e ogni settimana viene anche scelto un argomento comune che cerchiamo di toccare con le tante voci diverse, con i tanti punti di vista diversi. Il tema di questa settimana è legato a le proprietà intellettuali, quello che è un po' il discorso del copyright all'interno dell'Unione Europea. Si parla di economia digitale, con appunto l'avvento del digitale, si parla di pirateria, si parla di normative che la Commissione Europea sta mettendo in atto per trovare un qualcosa di comune, quindi un fronte comune, soprattutto legato a quello che è il discorso della contraffazione e non solo. Insomma, ci sono forti ripercussioni sia dal punto di vista di chi è commercia in idee e in proprietà intellettuali, ma sì anche di noi che siamo fruitori di tutto questo. Per capire quello che è un po' lo stato della situazione, anche se l'argomento è vastissimo, però ci piaceva l'approccio musicale, che è quello che forse più conosciamo e che più tocchiamo con mano, abbiamo invitato una persona che con la pirateria e con la musica digitale ci deve convivere quotidianamente, e diamo il benvenuto ad Andrea Rosi, presidente e amministratore di Sony Italia. Ciao Andrea, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Tu la scarichi la musica? Naturalmente sì. Naturalmente sì. Diciamo che già oggi, diciamo, la parte digitale del nostro business rappresenta intorno al 15% del nostro fatturato, ancora molto poco, però ovviamente ha dei tassi di crescita importanti. Certo. Andrea, se si parla di economia digitale, se si parla di copyright, se si parla di diritti, se si parla di pirateria, insomma il mondo della musica è il primo, no, che salta all'occhio e diventa un po' metafora di qualcosa poi di più grande. Cosa sta accadendo? Ci puoi fotografare lo stato della situazione a livello europeo? Ma guarda, stiamo vivendo un periodo di transizione che da una parte ovviamente vede la contrazione sempre più veloce del prodotto fisico e dall'altra la crescita del digitale. Devo dire che in Europa ci sono velocità anche un po' diverse e l'Italia purtroppo è ancora, diciamo, abbastanza indietro rispetto a questo per tante motivazioni, principalmente anche per un approccio forse particolare rispetto alla pirateria, che è entrato un po', diciamo, nelle nuove generazioni quasi come una consuetudine. Quindi non è un problema di repressione, assolutamente è un problema di cultura. Secondo me ci vorrà un pochino di tempo, le cose stanno comunque migliorando. Chiaramente il nostro settore è stato ed è completamente cambiato a causa della tecnologia, per cui è un processo abbastanza lento. Quindi è proprio un salto culturale, soprattutto in Italia, soprattutto tra le nuove generazioni che entrambi frequentiamo per motivi professionali, no? Il termine scaricare musica, uno fa subito pensare alla cosa illegale, quando invece in tante altre nazioni è normale, è consuetudine appunto acquistare magari per un euro un brano, e quindi te lo stai scaricando, quindi sei moderno, sei attuale, sei veloce, però sei anche nell'ambito della legalità, giustamente. Ma guarda, se devo dirti la verità, la metodologia dello scaricare un brano sta diventando quasi obsoleta, nel senso che ormai andiamo incontro sempre più velocemente a una cultura dell'accesso alla musica, non tanto del possesso di qualcosa. I ragazzi oggi i teenager non hanno dentro di sé, nel loro DNA, il fatto di possedere la musica, vogliono invece sentirla dove vogliono, quando vogliono e nel momento in cui hanno bisogno di sentire musica, per cui è per questo che i servizi cosiddetti di accesso, di streaming alla musica stanno avendo grandissimo successo. Certo. Purtroppo in Italia è preso un po' in ritardo, adesso da qualche mese è partito Cubo Musica, questo servizio di Telecom che è un prodotto straordinario che spero prenda piede. In altri paesi come la Scandinavia, ad esempio Spotify, non so se qualcuno di voi ha sentito questo nome, è un prodotto, un servizio di abbonamento in musica streaming che ha completamente stravolto il mercato della musica in Svezia, dove ormai più del 50% del fatturato è fatto da queste cose. Andrea, ma se un tuo artista domani pubblica un brano e lo vuole distribuire in tutta Europa, all'interno dell'Unione Europea, ti trovi con 27 legislazioni diverse o questo quadro giuridico comune che la Commissione sta cercando di attuare è già operativo in parte? Ma se parli di diritti e di musica, diciamo, legale, non c'è alcun problema. Noi abbiamo diciamo, nel DNA di ognuno dei nostri brani esistono dei diritti che possono essere territoriali oppure globali. Nel momento in cui pubblichiamo il nuovo singolo di Giorgia, tipo un esempio di un artista della Sony, certo, è disponibile in tutto il mondo, ovviamente forniamo questo brano a tutti i nostri partner, i nostri retailer. Facciamo un esempio, iTunes, tanto sì, a caso, okay, e simultaneamente questo brano è disponibile in tutto il mondo, in tutti i negozi di iTunes del mondo. Ok, non quindi solo in Europa. Certo, quindi insomma ci sono già appunto piattaforme, c'è già una legislazione comune. Assolutamente. A te la pirateria di fatto fa paura o comunque è anche un incentivo comunque alla musica che gira in rete, alla voglia di andarsi magari a pagare questo euro e scaricarsi e condividere, come dicevi prima, un brano? Ma guarda, è un discorso molto, cioè non è che fa paura, io sono anche di una generazione che ha vissuto anche un po' tanti anni fa il discorso di farsi le cassette, no? Uh-huh. O di, cioè, la cosiddetta pirateria è nel DNA della musica. Secondo me bisogna vedere un po' le cose in maniera diversa. Oggi la musica deve essere accessibile a tutti e ad un prezzo molto ragionevole, cioè quello a cui la gente è disposta a pagare. E proprio per questo, secondo me, il futuro in cui vediamo la musica come un servizio piuttosto che un prodotto è sicuramente vincente, perché credo che ognuno di noi sia disposto a pagare una cifra ragionevole, nell'ordine di 1-2 euro al mese, per avere accesso a tutta la musica che vuole. Certo, quindi insomma, questo è diciamo un po' il futuro che è davanti a noi. Spero che avvenga il più presto possibile, perché nel frattempo le industrie come la nostra si stanno ovviamente contraendo in termini di fatturato, in termini di posti di lavoro, in termini di tutto, purtroppo anche investimenti sugli artisti nuovi. Si discute tanto sul fenomeno dei talent show, che alla fine sono una scorciatoia per arrivare alla popolarità. Insomma, è molto vasto l'argomento. L'industria della musica ha bisogno comunque di essere inserita in un contesto, diciamo, legale. Sì. Poi voglio dire, posso essere d'accordo con quelli che dicono che i CD costavano troppo. Sì, poi quelle insomma sono altre riflessioni. Comunque il copyright può essere veramente una chiave per una nuova economia digitale, questo insomma è quello che state cercando di Ma non credo che nessuno, credo che tutti siamo d'accordo sul fatto che comunque poco o tanto che sia, in ogni caso la musica va in qualche modo retribuita, coloro che la producono vanno retribuiti. E come no, non solo la musica, insomma le idee in generale. Sì, certo. Grazie davvero Andrea per averci fotografato, lo stato delle cose, buon lavoro, che insomma anche per voi sono settimane intense. Ciao. Grazie a voi. Ciao, buon sabato. Ciao, ciao. Questa è l'altra Europa, 349-238-6666 per i vostri SMS. Se invece volete appunto andare a vedere tutti i link in diretta, usate pure le nostre pagine in Facebook, facebook.com/l'altra Europa, un Europost-it. Europost-it. Download Festival. Un festival nato come provocazione di tanti artisti rock verso l'industria discografica. Il festival si tiene ogni anno dal 2003 a Donington Park, nel Leicestershire, ed è una 3 giorni di musica che ha ospitato molti tra i più famosi gruppi della scena rock e metal. Nei suoi primi anni di esistenza, il download era reale. Con un codice sul biglietto si potevano scaricare da internet alcuni dei brani suonati dal vivo. Poi il download si è evoluto in una community di fan e organizzatori che ora contribuisce interattivamente alla creazione, ideazione e gestione del festival. Quest'anno è dal 10 al 12 giugno con tanti artisti famosissimi. Guardate quali su downloadfestival.co.uk. E rimaniamo nell'ambito online e lo facciamo con l'altra Europa Online, il nostro appuntamento mensile, anche se questo mese l'avevamo saltato, ma recuperiamo oggi alla grande con Christian Hesser. Lui dirige MrHarder.com, un'agenzia di ricerca di nuove tendenze in rete, tutto ciò che c'è di bello, che c'è di nuovo e che può essere anche sfruttato a livello aziendale, a livello commerciale. Noi cerchiamo quelle cose che possono anche avere ricadute sulla nostra quotidianità. Ciao Christian, ben ritrovato. Ciao Federico, tutto bene? Sì, noi tutto bene. La solita domanda, lo sai, no? Iniziamo sempre così. Sì. Milano piove, Amsterdam? Fantastica, che tra l'altro non sono ad Amsterdam, ma sono nel centro dell'Olanda, in un posto veramente idillico, tanto idillico che ho fortuna di avere contatto con voi, perché anche qui i segnali arrivano ogni tanto, segnali per la telefonia. Tanto questo posto è nel centro del paese. Insomma, rincuorante, quindi sì. Potrebbe cadere la linea da un momento all'altro. Prima di andare a vedere cosa hai trovato per noi questa settimana, volevo commentare con te la notizia che è uscita in questi giorni, rivoluzionaria nel suo piccolo, in Olanda. L'Olanda vieta ai turisti gli spinelli nei coffee shop, quindi non sono più locali pubblici, ma diventeranno dei circoli privati dove sarà vietato l'accesso ai turisti. Quindi veramente un cambio epocale. Un cambio che, ti dico sinceramente, mi dispiace un pochettino, perché sai, come sai, Amsterdam, il carattere liberale della città è una delle cose più belle della città. Dall'altro canto bisogna anche cercare di regolare un po' le cose, perché ogni tanto succedevano cose che non andavano bene, insomma. Uh-huh. E regolando in questo modo hanno cercato di trovare una via per far sì che tutti siano un po' contenti e che si trova una via di mezzo, insomma. Ok, l'opinione pubblica come ha reagito? Un po' così, la tua, ma, un po' l'opinione media? No, ma sai che noi qui in Olanda siamo molto laconici a riguardo, non è neanche una notizia, nel senso, è una cosa di vita qui in Olanda, ed è così, e si cambia, va bene, si ritrova sempre un altro modo di farlo in modo diverso, ancora di nuovo interessante. Perfetto, ci piace questo approccio. Christian, cosa hai trovato allora nella tua altra Europa online questo mese? Sì, ancora una cosa, la tua foto su Facebook, Federico, ma sei sul Polo Nord o cos'è? Bisogna cambiarla, è estate, bisogna mettere la maglietta. Va bene, sì, ok. Per quanto riguarda Berlino, il mese scorso c'è stato un grandissimo festival bellissimo che si chiama Repubblica. Sì. In questo festival c'è stata una presentazione di ushahidi.com. Ushahidi significa testimonianza. La cosa bella di questa iniziativa online è che Ushahidi non è nient'altro che aggregare tutte le informazioni che ti entrano via SMS o via smartphone o via il computer, aggregarle in mappe fisiche, nel senso Google Maps, vedi esattamente come questa informazione si aggrega e viene localizzata. Come abbiamo già detto spesso, la localizzazione, geolocalizzazione, è una cosa molto importante in questo momento. Cosa usano Ushahidi? In che situazioni usano Ushahidi? Quando ci sono dei problemi, per esempio come ad Haiti, quando ci sono dei terremoti, per esempio come in Giappone, quando succedono queste calamità, tanta gente vuole piazzare informazioni a riguardo per chiedere aiuto, per far sì che succeda qualcosa, eccetera, eccetera. Però il difficile lì è che tutta questa informazione aggregata è difficile localizzarla. Loro hanno pensato, se noi la mettiamo su una carta, su una mappa, sì, in quel modo possiamo organizzare anche molto meglio i nostri aiuti dall'esterno. Certo, quindi una geografia, una geografia dell'informazione che però può avere poi ripercussioni nel lato operativo. E diamo il sito, Christian? Il sito è www.ushahidi.com, ma come al solito alla fine metto tutti questi link sulla pagina di Facebook. Perfetto. Christian, ti fermo un attimo, lasciamo spazio alla pubblicità. Questi sono i tempi e i ritmi di Radio 24 e poi ti ritroviamo subito dopo con le altre tue segnalazioni. Europost-it. un premio alle buone pratiche. La vostra regione, città o paese ha adottato un progetto innovativo e sostenibile che potrebbe ispirare anche altre regioni europee? Perché non segnalarlo e magari vincere un premio? La Commissione europea promuove il Regio Stars Award, un premio per le regioni che hanno adottato buone pratiche e soluzioni innovative in tanti ambiti, dagli investimenti in infrastrutture green alle iniziative per far fronte all'invecchiamento della popolazione, a quelle per lo sviluppo di aree degradate, fino alla comunicazione dei progetti stessi per renderli più fruibili dai cittadini. Per partecipare bisogna mandare i progetti e le domande entro il 15 luglio 2011. Trovate tutto su europa.eu/take-part/prizes-competitions/regions. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, l'altra Europa, facebook.com/l'altraeuropa per trovare tutte le nostre segnalazioni in diretta, oppure 349-238-6666 per i vostri sms, l'altraeuropa@radio24.it per le vostre email, per contattare la nostra redazione. Siamo in collegamento con Christian Hesser di mrharder.com, lui da Amsterdam scruta l'intera rete alla ricerca di altre Europe online e come sempre poi le cose che trova, ce le segnala. Allora Cristiano, un'altra chicca che ci puoi regalare, qual è? Ah, fantastico. Ti ricordi nel 2006 la rivista Times in America, sì, aveva fatto la cover con grande scritto sopra You, e You, tu, te stesso, era Person of the Year, la persona dell'anno. Sì. Cosa dicevano al tempo, ed avevano ragione, era all'inizio, era nel 2006, siamo già un paio di anni indietro, che noi diventiamo sempre più centrali e protagonisti della nostra vita, sia offline ma anche della nostra vita digitale. Per fare un grande fabbricatore di microprocessori ha fatto un piccolo sito che è fantastico e voglio che tutti vadano a vederlo. La cosa bella è che anche loro lì hanno fatto in modo che tutte le tue informazioni che tu hai sulla tua pagina Facebook vengono canalizzate in un filmino che fa vedere la tua vita, ma la proiettano in un museo. E ti dico, l'idea non è nuova perché è già stato fatto, però il modo in cui l'hanno fatto, specialmente il fatto di metterlo in un museo, sì, è talmente suggestivo che dà esattamente la stessa carica e la stessa valore che Time aveva dato al 2006, tu centrale nel tuo mondo digitale. Perfetto, anche questo link lo andrai a pubblicare nella nostra pagina in Facebook. E Christian, sì, grazie come sempre per aver veramente viaggiato per noi nella rete. Ricordiamo mrharder.com, ma in diretta ora andrà a inserire tutti i link in facebook.com/l'altraeuropa. Ciao Christian, buon sabato. Ciao anche a voi, vediamo ciao, ciao. Al prossimo. Ciao. Ciao. 26-year-old Galway man has decided to try a different approach. Out of work for almost a year and on the brink of emigrating, Phelan Macanyumara from Inverin is advertising his search for employment on a rented billboard on Dublin's Merrion Road. This is Phelan Macanyumara, also known as Jobless Paddy. Last August, the business graduate returned from a year working in Australia to begin pursuing a long-term career here. Quello che stiamo ascoltando è un servizio di un TG preso dall'Irlanda che racconta una storia molto particolare che volevamo usare un po' come metafora, no? Si parla tanto di disoccupazione in Europa e questa storia è la storia di un ragazzo, di un laureato che dopo un anno di lavoro in Australia decide di tornare in Irlanda e cerca lavoro, questo lavoro non lo trova, quindi sceglie una provocazione che gli costa circa 2.000 euro, e la provocazione consiste nell'affiggere un enorme cartellone pubblicitario col suo faccione e la scritta salvami dall'emigrazione. Lui, il sottotesto qual era? Io non voglio essere un cervello in fuga, voglio lavorare nella mia nazione, aiutatemi. Per capire cos'è successo abbiamo invitato Laura Hopkins, che è proprietaria di un'agenzia di marketing e comunicazione, la One Production a Dublino, e quindi oltre ad essere esperta di, essendo lei stessa esperta di comunicazione, può raccontarci l'impatto che questa provocazione ha avuto sull'opinione pubblica. Ciao Laura, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, grazie di avermi lì. Grazie a te. Allora, intanto, il ragazzo ha un nome quasi impronunciabile, Felim McHine-Homara, giusto? Felim McNamara. Perfetto. E vi siete trovati col suo faccione in questo immenso cartello pubblicitario. E... No, infatti sono le sue spalle. Ah, di spalle? Perché sì, è stato preso da dietro, mm-hmm, con la valigia, con un diciamo un bastone di hurling, che è sport nazionale irlandese, sì, che sta guardando attraverso l'oceano a Londra, Sydney e New York. Che... E salvatemi dall'emigrazione. E quello ha proprio usato la lingua che era riconosciuta da tanti qui in Irlanda. Mm-hmm. Ecco, dal punto di vista del marketing è una cosa molto efficace, una cosa che... Una cosa geniale. Geniale. Ti è piaciuta, vero? L'avresti voluta ideare tu. Appunto. E quali sono state le conseguenze, le reazioni? Cos'è successo dopo che lui ha messo questa sorta di pubblicità? Le reazioni erano molto positive, molto positive. Hanno fatto anche un clip su lui sul notiziario, sì, così ha ricevuto tante mail, tanti messaggi Twitter, ha ricevuto anche l'offerta dei consigli dai business advisors per migliorare il suo CV, mm-hmm, il suo curriculum, certo. Sì, poi non hanno detto niente se esistono già le offerte di lavoro. Ok, quindi non sappiamo se ha trovato lavoro o meno, però ha mosso le cose in una nazione dove la disoccupazione giovanile è un problema, dove sono tantissimi i ragazzi, i laureati, insomma il problema dei cervelli in fuga c'è anche lì, quindi andava proprio a colpire in questo ambito di discussione. Lui ha spiegato come mai non trovava lavoro? Beh, c'è il discorso che lui ha 26 anni, ha lasciato Irlanda per lavorare in Australia, poi è tornato. Da quel punto di vista, con una laurea in commercio, sì, suo CV non sarebbe tanto diverso dai mille di altri curriculum. Ok. Così, in questo modo ha mostrato che è diverso. Ha aggiunto quel tocco di creatività al proprio curriculum che può fare assolutamente la differenza. Gli ha costato, perché insomma 2000 euro è un piccolo investimento, però... 2000 euro per 2 settimane. Ah, ok, quindi ne vale la pena, tu dici? Beh, non lo so, io credo che ha fatto un... che non ha negoziato bene, perché a me sembra caro, a dire la verità. Ma tu non l'hai convocato, non gli hai fatto un colloquio, no? No. No, ok. No, purtroppo nostra azienda adesso non ha bisogno di un impiegato del suo profilo, però lo considererei. Ok, sì, insomma, l'idea ti è piaciuta. Abbiamo caricato in Facebook l'intervista allo studente, insomma, potete vederlo anche in faccia, perché è una bella faccia, c'ha l'occhio sveglio, è uno che veramente può fare la differenza. Grazie davvero Laura per averci raccontato questa bella storia. Si parla di Europa anche in questo modo. Ciao e buon sabato. Ciao ciao. Altrettanto, ciao. Europost-it. Il Titanic, una storia che compie 100 anni. Il Titanic è stato costruito nei famosi cantieri navali di Belfast e da lì è cominciata la sua avventura, tragica e straordinaria, che nel 2011 compie 100 anni. La città dell'Irlanda del Nord ha deciso di celebrare una delle sue più note creature, la gloria della sua industria navale, investendo nel vecchio quartiere dei cantieri per creare un moderno Titanic Quarter, che ospita le sedi delle università, un parco tecnologico e un museo virtuale che aprirà presto. Commemorazioni e giochi di luce hanno aperto le celebrazioni ufficiali per i 100 anni del Titanic, che si possono rivivere in una mostra all'Ulster Folk and Transport Museum, aperta fino al 31 agosto. Trovate tutto sul sito ufficiale della Casa del Titanic a Belfast, the-titanic.com. Questi sono i nostri Europostit, segnalazioni, notizie, dritte in giro per l'Europa, e di Europa continuiamo a parlarne, e lo facciamo andando in Portogallo, questa nazione che insomma tante volte abbiamo accompagnato. Troppe volte si parla di Portogallo perché si parla di crisi, perché si parla di crisi economica e politica. E domani ci saranno le elezioni dopo le dimissioni avvenute 2 mesi fa del primo ministro Socrates, e quindi volevamo un attimo capire quello che sta accadendo, e per farlo abbiamo invitato il caporedattore del principale telegiornale portoghese, e diamole ben ritrovato a Fernando Parata. Ciao Fernando. Buongiorno. Tutto pronto per le elezioni? Si ha voglia di andare a votare? Sì, credo di sì. Non si aspetta un'astensione molto più grande che il solito, quindi andrà sui 35-40%. Uh-huh. Quindi sarà un'elezione normale, credo. Ok, Fernando, ci puoi fare una sintesi? Quali sono le forze politiche in gioco? Soprattutto ci saranno i due principali partiti, il Partito Socialista, come sempre il Partito Socialdemocrata. Il Partito Socialista che è al potere questi ultimi 6 anni, e il Partito Socialdemocrata che secondo tutti i sondaggi uscirà vincitore domani, un distacco del 5-6% almeno, così dicono. Quindi il Portogallo domani probabilmente girerà a destra. Ok. C'è voglia di svolta o c'è rassegnazione? Nel senso, c'è voglia di cambiamento a prescindere, ma con un certo ottimismo, nel senso che si vedono segnali possibili, o è un vabbè, proviamoci? Proviamoci, appunto. Non credo che ci sia un grande ottimismo. C'è una voglia di cambiare perché questi ultimi 2-3 anni non sono proprio usciti molto bene. Assolutamente. Fernando, rimani lì, ci fermiamo un attimo perché diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo da te, e lo facciamo tornando in musica tra un attimo qui all'Altra Europa. Stiamo parlando di Portogallo, ci saranno le elezioni domani, con noi Fernando Parata, caporedattore del principale telegiornale portoghese. Quindi Fernando, per te sarà un weekend caldo, immagino. No, purtroppo no, perché torno soltanto il lunedì, perché qualcuno deve riposare il fine settimana, perché lunedì comincia un'altra etapa, diciamo. Capito, ti tocca fare vacanza, insomma, succede. Allora Fernando, queste elezioni sono state anche caratterizzate da una sorpresa musicale, da un brano dove si parla, è una sorta di inno contro il precariato. Volevamo parlare anche di questa cosa, e a noi piace il cambio generazionale, quindi abbiamo deciso di non parlarne con te, ma con tuo figlio. Credo che la cosa ti offende, no? No. Ok, che è qua con noi, diamo il benvenuto a Riccardo Averini. Ciao Riccardo. Buongiorno, ciao. Ciao. Allora, tu hai 25 anni, sei un neolaureato in scienze politiche, giusto? No, neolaureato no, mi sono laureato già da 2 anni, ho fatto dopo un master che in Portogallo è lo stesso che la specialistica in Italia. Perfetto. Un master in scienze politiche anche. Uh-huh. E hai lavorato almeno un giorno nella tua vita già o non ancora? Oh, sì, un giorno, 2 giorni ho lavorato, sì, per fare così cose non importanti, non i lavori che fanno i giovani per guadagnare qualche soldo. Ok, però insomma anche per te sei un disoccupato, neanche un precario. Sì, sì, sono proprio un disoccupato, sì. Ecco, però quindi sei la persona, ahimè, adatta per presentarci questo inno contro il precariato, questa canzone Che stupida sono in italiano, e il titolo portoghese è? Che parva che so. Ok, raccontaci che cos'è, come nasce questa canzone e perché ha avuto questo impatto così forte sui giovani portoghesi. Nasce soprattutto dalla situazione dei giovani in Portogallo, e ha avuto un grande impatto perché appunto riflette proprio e rappresenta la situazione dei giovani in Portogallo. C'è una canzone che parla della disoccupazione tra i giovani, Che non trovano lavoro e dove le persone si ritrovano, no? Dove i giovani si ritrovano, dove vedono la sua situazione in quelle parole, che sono proprio riflettono proprio la nostra situazione, la situazione dei giovani. Certo, una sorta di bandiera di protesta di una generazione. Come si dice in Portogallo, è una canzone di intervenzione. quindi di intervenzione, che era una, cosa che esisteva molto al tempo della della dittatura di Salazar. Ok. Che era un tipo di canzone che faceva la critica sociale. Ok, quindi insomma una canzone impegnata. Andiamo a ascoltarne qualche secondo per capire anche appunto il sapore, al di là, oltre al messaggio. Che parva che io so, figlio smarito sto sempre a diar, e ainda me falta o carro pagar. Eu sou e fico a pensar. Loro sono i Deolinda, è il fado, ironico, giocoso, intelligente. È bella anche questa contaminazione, Riccardo, tra la musica popolare e una protesta, una lettura assolutamente attuale e contemporanea della società. Sì, ma è una cosa che si fa da molto tempo in Portogallo. Sì, questi hanno avuto un grande impatto, però è una cosa che si fa da molto tempo in Portogallo, questo di mischiare la musica popolare con il messaggio sociale. Mm-hmm. Ecco, questa canzone è un messaggio sociale che influenzerà secondo te le elezioni, nel senso che è un qualcosa che va al di là di una semplice musica? Non lo so che impatto potrà avere nelle elezioni, perché i giovani non credono alle soluzioni che ci offre il quadro politico, no? Mm-hmm. Non credo che possa influenzare il voto. Okay, insomma, sento un po' di malinconia, non so se sia il fado o se sia una sorta di rassegnazione. Tu andrai a votare? Io sì, io vado a votare come sempre, okay. Però in bianco come nelle ultime volte, sicuramente. Perché non ti senti rappresentato dalla non classe politica? Non mi sento rappresentato da nessuno, no. Mm-hmm. Okay. Ho già fatto la riflessione, ho già sentito tutti e proprio non credo a nessuna soluzione. Ecco, insomma, e questo è triste, no? Però è la realtà, quindi credo che sia importante che la tua, che è una sorta di protesta come quella di tanti altri portoghesi, sì. Di giovani portoghesi come te, insomma, che deve essere un messaggio per una classe politica attenta e speriamo nuova. Riccardo, grazie davvero, sì. Per essere stato qua con noi, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Alta Europa. Buon okay, sabato, grazie. Ciao Fernando, grazie anche a te. Ciao e buon lavoro, ciao ciao. Grazie. Going on a road trip, huh? Yeah. A tour of America's most famous UFO hotspots. I hear that. I cannot believe we're gonna see Area 51. Hi. I'm Paul. Quello che scatte, che state ascoltando è il trailer in lingua originale di Paul, questo nuovo film, si parla di un alieno, è uscito mercoledì anche nelle sale italiane, c'è la voce di Elio, che insomma è un po' una chicca aggiuntiva a questo cortometraggio, un film di animazione. Beh, e dietro all'animazione di questo personaggio c'è anche un italiano, si chiama Gianluca Fratellini, nasce a Modugno in provincia di Bari, ha girato il mondo, ha girato l'Europa, gli effetti speciali sono la sua quotidianità e proprio gli effetti speciali e l'animazione 3D è stata la molla per girare in Europa, è una bellissima storia e quindi ci piace averlo qua con noi. Ciao Gianluca. Ciao Federico, buon sabato. Ciao. Come va? Bene. Tra l'altro io con Gianluca quando ho conduciuto Screen Saver ho avuto la fortuna di essere uno dei primi, forse, vero, a farti conoscere, ti ricordi? Diciamo che mi hai portato fortuna, diciamo, 8 anni fa l'incontro, adesso è quello ravvicinato con Paul. Gianluca, dalla Puglia all'Europa, noi diamo un taglio europeo alle nostre notizie, tu hai scelto Londra adesso come casa, sì. Dove lavori nello specifico? Dunque, attualmente lavoro a Londra per la Double Negative, che è una società di effetti speciali e animazione, e si tratta anche film come Harry Potter, Prince of Persia, Inception, non so se l'hai visto, immagino di sì. E niente, quindi sono qui a Londra di passaggio, immagino, visto che comunque giro il mondo parecchie volte e non smetto mai di